La ilaha illallahu wahdahu, la sharika lah. Non c'è divinità tranne Allah, unico, il quale non ha condomini. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. A lui appartiene il regno e a lui la lode, dalla vita e dalla morte. Wa huwa hayyun la yamut bi yadihi il khair. Egli è il vivente, il quale non muore. Il bene è nella sua mano. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. E egli ha potere su tutte le cose. Wa ilayhi al-masir. E verso lui è diretto il nostro viaggio.